Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, l'ultima puntata della settimana, ma in realtà il tema ormai si è sempre quello, è quello di cui ci stiamo occupando da tanti giorni a questa parte. Siamo ritornati ad occuparci infatti in maniera abbastanza insistente, direi, dell'andamento dei mercati finanziari dopo lo scoppio, con rischio domino per qualcuno, della crisi greca, crisi che ha portato forte volatilità sul mercato azionario, esattamente quella che stiamo riosservando questa mattina. C'è stata una forte volatilità e si mantiene anche quella ancora adesso sul mercato obbligazionario, e poi insomma questa crisi ha portato anche una discesa repentina forte dell'euro su tutte le divise internazionali, sui minimi da 4 anni qualche giorno fa, sul dollaro, anche se in vistosissimo recupero delle ultime ore, ieri addirittura ai minimi da 9 anni sullo yen. E allora la situazione desta ancora una certa preoccupazione, perché non si capisce bene se il piano salva euro sarà convincente fino in fondo, se i governi europei continueranno a muoversi in ordine sparso per affrontare la crisi, come ha fatto 2 giorni fa la Germania con il blocco delle vendite allo scoperto su alcuni strumenti finanziari. E poi non c'è una grande convinzione sulla ripresa economica o meno, insomma tutto questo pressa la moneta unica europea. E allora domani la storia di copertina di Plus 24 si dedica proprio a questo tema, cercando però di vederla anche in termini positivi, e cioè possono essere individuate delle società, se parliamo di mercato azionario o asset in termini generali, su cui puntare, che potenzialmente possono beneficiare di questa situazione di valuta debole, in difficoltà. Quindi stamattina la domanda che faremo ai nostri interlocutori è proprio questa: questa svalutazione può portare nuove idee di investimento, e quali fra borsa e bond e obbligazioni? Allora, intanto ci presenterà la storia di copertina Isabella Dalla Valle, Plus 24, Il Sole 24 Ore. Ciao, bentornata. Ciao Deborah, buongiorno a tutti. E poi la nostra chiacchierata la proseguiremo con Carlo Gentili, amministratore delegato di Nextam Partners. Buongiorno. Buongiorno a voi. Voce un po' bassa, ci preannunciava al telefono, e lui dice insomma quando i mercati scendono mi scende anche la voce, c'è questo rapporto diretto, Gentili? È così? Di tanto sì. Un po' di depressione che si trasferisce sulle corde vocali. Un po' più pimpante invece sicuramente Laura Di Luca, gestore obbligazionario di Anima SGR, che saluto. Di Luca, buongiorno, buongiorno, benvenuta a Salva Danaio. Sicuramente desta un po' più di attenzione, cioè perlomeno necessita di più attenzione il comparto obbligazionario in questi giorni, per cui deve essere brillante non solo dal punto di vista vocale, ma soprattutto dal punto di vista insomma mentale, credo. Laura Di Luca, allora 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, per le vostre osservazioni, per i vostri interventi. 349 238 6666, se i vostri interventi li volete fare attraverso la modalità SMS. Prima di presentarvi la nostra scheda, come sempre un'occhiata a quello che accade questa mattina. Allora, dicevamo un ritorno di volatilità sul mercato azionario, perché le borse ieri di nuovo in difficoltà, soprattutto a Wall Street, dove sono pesati i dati sui sussidi settimanali alla disoccupazione. Stamattina si tentava un recupero, poi borse di nuovo in calo. In realtà l'apertura è stata contrastata, perché era positiva solo Piazza Affari, le altre erano negative, poi qualche listino ha riconquistato la parità. Adesso di nuovo tutte giù: Parigi -0,4, Francoforte -1, qui pesa l'IFO tedesco, l'indice di fiducia, che in maggio è risultato molto peggiore delle attese. Londra -0,44, ha chiuso in maniera molto negativa il Nikkei a Tokyo, -2,45%. Milano +0,19%, è arrivata a guadagnare oltre 1, adesso lo sta perdendo. Insomma, questo è il quadro, oscillazioni abbastanza consistenti, e quindi la chiusura della settimana sarà ancora una volta l'insegna di questa turbolenza che ormai sta caratterizzando le borse di nuovo da diverse settimane. E l'euro sul dollaro, che sarà il protagonista della nostra puntata, 2 giorni fa ai minimi da 4 anni, intorno a 1,21, ieri dopo il dato sulla disoccupazione americana è volato a 1,26, pensate che movimento ha fatto nel giro di 2 giorni, adesso un po' indietro, 1,25,20, però c'è stato un recupero molto molto netto. E allora, quali società o quali classi di investimento possono beneficiare di questa situazione sulle valute? Intanto vi riepiloghiamo un po' quello che è successo negli ultimi giorni. Continuano a pesare i dubbi sulla tenuta dell'euro, oltre alla decisione della Germania di limitare le vendite allo scoperto. A tutto questo, ieri si sono aggiunti anche il dato americano sulle richieste di sussidi di disoccupazione, risultato nettamente peggiore delle attese, e i timori legati alle manovre coordinate dai paesi europei per stabilizzare i mercati. Tanto è bastato per far invertire la rotta le principali borse, che dopo un'apertura in positivo hanno archiviato in calo la giornata, seppur risollevandosi dai minimi giornalieri. Speculazione e nervosismo sembrano dunque essere ancora una volta le protagoniste sulla scena internazionale, così come l'euro sempre più vulnerabile a causa delle preoccupazioni sulla situazione debitoria interna all'Unione Europea. La moneta unica ha toccato ieri il livello più basso da circa 9 anni a questa parte sullo yen e si mantiene sui minimi contro il biglietto verde. Ma fino a che livelli può spingersi questa discesa? Il recupero dell'euro, secondo gli operatori, sarà probabilmente limitato, in quanto ogni apprezzamento della valuta verrà sfruttato per vendere e realizzare qualche profitto. In uno scenario di questo tipo, quali potrebbero essere dunque le strategie di investimento adatte? Quali settori e strumenti potrebbero beneficiarne? È una bella domanda quella, in una crisi che ha scompaginato le convinzioni di molti. A quanto pare è molto difficile adesso fare delle scelte di investimento che puntino sui fondamentali. Questo riguarda sia le società quotate che i titoli obbligazionari. Allora, anticipiamo un po' la storia di copertina, poi già qualche ascoltatore si lamenta perché non abbiamo dato i migliori e peggiori delle FTSE MIB. Adesso ci arriviamo. Intanto, Isabella, insomma, come avete articolato la vostra inchiesta? Che avete sentito? Che risposte sono arrivate? Ma abbiamo cercato, come cerchiamo di fare sempre, di fare un'inchiesta un po' ad ampio spettro, cercando di dare dei consigli che fossero realmente operativi su quelle che sono le scelte da fare o anche nel caso da non fare in questo momento di particolare volatilità, legato sicuramente anche al che ha, diciamo, provocato questo indebolimento dell'euro, che è un fattore un po' nuovo per, diciamo, per gli investitori, perché se pensiamo che l'euro per 4 anni rispetto al dollaro ci aveva abituato ad essere una valuta molto forte, adesso diciamo che lo scenario è un pochino cambiato. Per cui abbiamo fatto un po' abbiamo cercato di fare una panoramica, cercando di individuare settori e anche dei titoli, sentito appunto degli operatori, dei gestori, e quello che è emerso è sostanzialmente che ci sono delle società europee che hanno una buona quota del loro fatturato in dollari, che sicuramente beneficeranno di questa debolezza dell'euro. Per esempio, faccio un esempio per interromperti, così almeno sì, Racconto anche quello che sta accadendo stamattina sui mercati. Il forte recupero degli ultimi minuti, delle ultime 2 giornate del dollaro sull'euro, era ai massimi praticamente 1,21, aveva ovviamente provocato delle oscillazioni tipo su Luxottica e Bulgari, certo, che esprimono grossa parte del loro fatturato in dollari, è uno tra i titoli. E oggi con il dollaro che recupera, questi due titoli scendono, certo, pesantemente. Certo. Quindi abbiamo individuato anche appunto altri titoli del lusso, grandi big italiani e anche società francesi che appunto hanno buona parte del loro fatturato espresso in dollari. E poi in termini settoriali c'è chi indica i titoli farmaceutici come un porto dove poter indirizzare i propri risparmi, perché appunto, insomma, essendo titoli tradizionalmente anche difensivi, sono quelli che vanno un po' bene tra virgolette per tutte le stagioni. E direi che non abbiamo visto una grande preoccupazione per la debolezza dell'euro rispetto al dollaro, francamente, anche perché si dice che un valore congruo per rendere veramente le aziende europee competitive sia un valore intorno a 1,20-1,25 rispetto al dollaro. E poi anche il fatto che le nostre aziende hanno patito molto la competitività proprio per questo euro molto forte, quindi anche le esportazioni molto penalizzate da questa situazione, adesso potrebbero, soprattutto, certo, le società italiane, ecco, si è ritornato un po' a guardare verso l'Italia con una certa attenzione, che potrebbe essere un mercato che può dare delle soddisfazioni. E insomma, infatti, no, allora il tema, tra l'altro, delle ultime settimane molto forte è stato, è stata la considerazione relativa al fatto, Carlo Gentili, la comincio subito a coinvolgere, che comunque, insomma, questo euro ha avuto queste enormi difficoltà, non tanto per ragioni fondamentali, questo è un tema che piace molto anche a Laura Di Luca, con la quale poi lo stesso approfondirò questo concetto, ma in sostanza la debolezza è arrivato anche da questa scarsa coesione politica per portare a casa un piano di salvataggio per la Grecia e quant'altro, quindi insomma una debolezza determinata non da fattori fondamentali, ma in realtà arrivato a questo livello potrebbe addirittura rappresentare la spinta propulsiva fondamentale per la ripresa economica dell'Eurozona. Fatto un'argomentazione un po' complessa, oppure ci sta? Gentili lo abbiamo perso. E allora giro a Laura Di Luca questa considerazione, gestore obbligazionario di Anima SGR. Sì, sì, sicuramente ci sono molte correlazioni, non si può fare a meno di pensare col mercato azionario. Scusi. Sì, mi sente? No, c'è qualcuno che mi dice che non mi stanno sentendo. No, la sentiamo benissimo. Perfetto. Questa mattina veramente non so cosa sta succedendo alle linee telefoniche. Abbiamo qualche fantasma che si sta infilando nelle nostre linee. Esatto, no, quello che stavo dicendo, indubbiamente sul mercato obbligazionario bisogna differenziare quello che è il mercato dei titoli di Stato col mercato corporate. Per ciò che riguarda il mercato corporate, non si può che esprimere una forte correlazione con ciò che è stato illustrato prima, quindi con i vantaggi competitivi che possiamo avere dai titoli esposti all'export e quelli che hanno un forte fatturato in dollari. Quindi bene, poi allora così apriamo il campo già ad una considerazione sulle obbligazioni societarie, quindi non tanto sulle società quotate quanto anche su un asset diverso di investimento. Noi tra l'altro abbiamo già pronto un ascoltatore per una domanda, che è Carlo da Milano. Carlo, io gliela faccio fare, così metto tutto quanto in cantina per la seconda parte di Salvadanaio. Ci dica subito, così poi cominciamo anche a rispondervi. Non sentiamo neanche Carlo stamattina. Allora, qua abbiamo capito che è colpa di Fabio Cantadori, che non sta gestendo la regia adeguatamente in questo momento. Fabio, naturalmente sto scherzando. Gentile, mi sente? Sì. Perfetto. Allora, così, la considerazione di partenza, visto che avevo chiamato lei per fare qualche considerazione di fondo sul mercato azionario. Mediamente una valuta debole permette alle società che esportano molto di ovviamente incrementare i propri affari. Questa è proprio, credo, una regola molto, molto basica, che può essere sposata anche in un frangente come questo. Facevamo prima le considerazioni sulle società italiane con Isabella Della Valle. E allora, un euro su questi livelli, quali tipo di settori può spingere? Soprattutto un euro su questi livelli, che certo preoccupa, perché è un livello a cui l'euro è piombato a causa di una crisi anche politica, fondamentalmente, più che basata su fondamentali di mercato. E però può dare anche la spinta ad una ripresa dell'eurozona, quindi la possiamo vedere da un punto di vista positivo questa situazione, Gentili? Sì, sicuramente sì, certamente ci sono delle società quotate che evidentemente beneficeranno della debolezza dell'euro. Naturalmente bisogna domandarsi, e questa è certamente una delle domande che si fa al mercato in questi giorni, se la ripresa ha abbastanza forza e quindi se, diciamo, di questo teorico beneficio poi in realtà le società ne coglieranno l'opportunità fino in fondo. Però, diciamo, tutte le società esportatrici, è banale a dirsi, però diciamo che hanno beneficio in questo senso, società con forti attività all'estero. Pensa ad Autogrill, la prima che mi viene in mente, non solo perché inizia con A, ma anche perché effettivamente è una delle società che realizza la maggior parte del suo fatturato all'estero, negli Stati Uniti per la precisione. Oltre a lei, naturalmente, con la B mi viene in mente Brembo, per dire un'altra società importante che ha, diciamo, commesse industriali importanti. Naturalmente, appunto, sono società cicliche legate all'andamento economico, quindi bene il dollaro forte, bene, diciamo, l'euro basso se possono esportare di più, però poi bisogna essere consapevoli che magari se la ripresa non è proprio così forte come tutti in effetti ci aspettavamo, cioè eravamo abbastanza rassicurati dai numeri che vedevamo, poi questi benefici non arrivano. Sicuramente, certo che diciamo che la ripresa si è messa di traverso anche questa crisi dei governi, degli stati, dell'eurozona, ecco, che era del tutto per certi versi prevista, ma per molti aspetti molto intensi disattesa. Vorrei dire infatti che la più grande occasione che mi viene in mente, diciamo, da questo punto di vista, è data dai titoli di Stato. Insomma, ecco, cioè, qui la vera crisi in questo momento è stata su titoli di Stato, è stata sulle obbligazioni di Stato dei paesi sovrani. Lì effettivamente si sono create opportunità importanti. Mi sembra che non ci siano possibilità concrete di default di nessun paese. Chi parla di default, evidentemente, questo mio giudizio, ma non si rende neanche vagamente conto di quello cosa che potrebbe significare il significato di un default. Ho la forte, fortissima convinzione che nessun governo e nessuna BCE possa lasciare andare né la Grecia, men che meno paesi più grandi della Grecia. Quindi diciamo, su titoli di Stato, penso anche a quelli italiani, per non andare troppo lontano e per, diciamo, tenersi il rischio in casa, abbiano subito, diciamo, un contraccolpo che va al di là, di quello che immeritato, dice lei. Assolutamente immeritato. E quindi, prima di andare a fare voli pindarici su una strana società quotata che forse potrebbe esportare di più se tutto va bene, attenzione, perché i titoli di Stato italiani hanno preso una scoppola, passata in termini, piuttosto violenta, e si sono aperti degli spread che, insomma, danno dei rendimenti che io direi certi, interessanti. E quindi ecco dove si è aperta l'opportunità. Laura De Luca condivide, Laura Di Luca, gestore obbligazionario di Anima SGR, questa considerazione fatta fino ad ora da Carlo Gentili, e le voglio fare, come dire, far fare una riflessione anche da un punto di vista diverso. In sostanza, come dire, la riflessione di Gentili ci porta a dire che ci sono dei contesti, delle situazioni come quello che stiamo vivendo in questo momento, in cui una valuta che registra una volatilità così ampia come quella che abbiamo che si è manifestata appunto nel rapporto fra euro-dollaro, porta anche a, come dire, un beneficio per il mercato obbligazionario, paradossalmente. Allora io le chiedo, per esempio, che segnale è stato il fatto che ieri i Bund tedeschi, i titoli decennali della Germania, abbiano toccato un rendimento minimo al 2,65-2,67%. Quindi, se uno deve prendersi una scadenza decennale, adesso dove va a parare? Le ho fatto una domanda, sì, che richiederebbe una conferenza stampa, però magari... No, ma fondamentalmente, partendo dalla prima considerazione, sposo completamente la visione del dottor Gentili, in quanto sia dal punto di vista del mercato azionario, di tutte le nuove opportunità che si possono aprire in un contesto, diciamo, di turbolenza, ma se si ritorna a guardare i fondamentali, dalle spinte forti che stanno arrivando sia all'interno dei bilanci delle società che sono comunque pronte per un nuovo impiego di liquidità, sia da un punto di vista diciamo un pochino più allargato di quello che coinvolge i mercati emergenti e quindi di forze molto più importanti che stanno coinvolgendo il mercato, che in questo momento non vengono considerate. La seconda domanda riguarda il rendimento del decennale tedesco. Purtroppo quello che stiamo valutando in questo momento è semplicemente che tutto ciò che riguarda il rendimento, sia dalla parte 2 anni sia dalla parte 10 anni tedesco, non è spiegato dai fondamentali. Adesso se esclusiamo questi piccoli dati che vengono in questi giorni, l'AIFO, lo ZEV, eccetera, ma in ogni caso il mercato compra il futuro e io direi che uno 0,50 di un 2 anni tedesco, quindi al di sotto del livello della Banca Centrale Europea, farebbe pensare a dei problemi di crescita importanti. Invece abbiamo storie di crescita comunque rivolte al futuro, di successo per ciò che riguarda la Germania, essendo un paese molto esportatore, quindi con un aumento della competitività molto elevato, per non parlare di quello che un argomento toccato prima per ciò che riguarda il fatturato in dollari, che verrà rivalutato sicuramente in ambito dei bilanci. Ecco. Allora, poi tra l'altro mi piacerebbe anche sentire che cosa ne pensa a proposito, vista la relazione della curva dei rendimenti dei tassi di interesse, cosa stanno preannunciando adesso le curve, visto che generalmente manifestano determinate aspettative anche sull'andamento futuro dei tassi. Adesso ci arriviamo. Sentirei un paio di ascoltatori per poi tornare anche ad Isabella Della Valle, che ha raccolto anche qualche considerazione fra i gestori interpellati per le pagine di Plus 24 di domani a proposito delle obbligazioni societarie. Allora, sentiamo intanto Carlo da Milano, speriamo di averlo recuperato bene. Carlo? Sì, buongiorno. Benissimo. Allora, la mia domanda è la seguente: ci sono degli operatori che considerano il cambio attuale dell'euro rispetto al dollaro un cambio ancora sottovalutato, altri viceversa lo considerano ancora sopravvalutato, cioè intendono che nel medio periodo l'euro sia... Guardi, io ho sentito un po' di trader all'Etiforum di Rimini dello scorso fine settimana, c'è chi addirittura lo vede proprio proiettato a 1,1, tanto per dirle, esatto. Per cui ancora margini di discesa molto forti. E quindi lei dice, insomma, dove sta la verità, Carlo? Sì, insomma, dov'è il punto di... Sì, sì. Arrivo. Tra l'altro, sentiamo, continuiamo ancora a sentire la mano. Sentirai anche Massimo da Caserta, che forse ha una, che forse ha una riflessione simile. Massimo. Buongiorno, il dottor Gentili ha già parzialmente risposto alla, alla mia domanda, che però vorrei entrare nello specifico. Io credo che il mercato obbligazionario comunque se ne giovi del fatto di questo andamento sensibilmente al traliante del dollaro. Ha raggiunto 1,39 euro mesi fa, adesso siamo arrivati a 1,21 per risalire. Ma sì, l'estate scorsa eravamo a 1,45, quindi 1,45, sì. Vabbè, voglio dire, credo, però mi sa tanto di una coperta troppo corta. Se l'euro è troppo debole, l'eurozona viene penalizzata nelle esportazioni, viene favorita nelle esportazioni. Se l'euro è troppo forte, viene penalizzata per quanto riguarda prodotti che vengono da altri paesi, come il petrolio, eccetera, eccetera. Voglio dire, da dove si tira la coperta ci si rimane sempre un po' scoperti. Volevo sapere se era possibile, quale fosse il giusto equilibrio. Esatto, Carlo, e allora è proprio lo stesso punto a cui voleva arrivare Carlo da Milano. Gentili, quindi torno a lei, anche se adesso devo andare ai suggerimenti perché in viaggio, ma forse in un minuto e mezzo ce la facciamo un po' a dare una risposta ad entrambi. E a saperlo dov'è questo punto di equilibrio, dove si ripristinerà in sostanza questo equilibrio, è ben difficile da poter dire adesso, credo. In linea di principio direi innanzitutto che è un po' catalano questo concetto, però è sempre meglio avere una moneta molto forte che una moneta molto debole. È catalano ma fino a un certo punto, perché in Italia, come sappiamo, negli anni della lira molte forze sia sociali, sindacali, Confindustria eccetera hanno sempre spinto per una svalutazione cosiddetta competitiva. Questo è stato una sorta di errore strategico nel nostro paese. Quando abbiamo combattuto questa logica abbiamo fatto bene, quando abbiamo ceduto abbiamo commesso errori perché abbiamo impoverito strutturalmente il paese. Patrimonialmente una moneta debole porta evidentemente a una perdita di credibilità, di patrimonio economico, eccetera. Quindi moneta forte, i tedeschi hanno ragione, hanno avuto storicamente ragione dal dopoguerra fino alla sparizione del marco a volere una moneta forte, e con la moneta forte ci hanno dimostrato che sono stati il primo esportatore al mondo. Benissimo, quindi, su che livello l'euro si può considerare forte sul dollaro? Ma, ritornare certo, su 1,30 per esempio? Dove eravamo un anno fa era forte, forse troppo forte, però, perché è anche vero che non può costare banalmente di più la vita a Milano che a New York, il famoso hamburger di Milano non può costare più che l'hamburger di New York, non c'è una ragione, o l'appartamento al metro quadrato, quello che volete. Quindi alla fine sono anche degli elementi proprio banali, quotidiani, che ci dicono se è forte o non è forte. Quando un metro quadro a Milano costa più di un metro quadro a New York, c'è qualcosa che non va. Che non Manhattan funziona. Un'isola, tanto di più di così non si costruisce. Quindi perché? Allora, dov'è? Ma più o meno dove siamo un po' più cari a New York, un po' meno cari a Milano, quello lo considererei un punto di equilibrio. Allora, 8,0020, che bella considerazione questo, il parallelo tra l'abitare qua e a New York. L'andamento delle obbligazioni societarie in rapporto a questo euro e in rapporto ai titoli di Stato, cosa hanno detto? Ma allora, premesso che io sono perfettamente d'accordo con Carlo Gentili, che dubito fortemente che ci sarà un default di qualche Stato, insomma è un po' uno scenario apocalittico che non mi prefiguro, però obiettivamente fino a un anno fa magari nessuno poteva immaginare che la Grecia piuttosto che la Spagna, piuttosto che l'Irlanda, esatto, piuttosto che gli stesso UK versassero in queste condizioni così critiche, e quindi c'è un ritorno all'attenzione del merito di credito dei titoli governativi degli stati, cioè la gente si fa magari quelle domande che una volta non si faceva perché dava per scontato dei paradigmi, diceva non succederà mai, e quindi è tornata è continuata, se vogliamo, l'attenzione verso i titoli corporate, che tante volte risultano quasi, no, più affidabili di un titolo greco. Uno dice ma magari mi oriento più su un'azienda che mi emette un'obbligazione che mi dà più affidabilità, cioè c'è questo approccio più verso il titolo corporate magari che verso il titolo governativo in questo momento. Questa è un po' la cosa che è emersa. Poi un'altra cosa singolare è il fatto che c'è molta attenzione su quelle che saranno le manovre dei governi, come chiedeva, mi sembra, un'ascoltatrice prima, se non sbaglio, segnalava il fatto che appunto c'è la Merkel che chiede maggiore rigore, ma lo stesso Obama negli Stati Uniti con l'approvazione di questa riforma finanziaria si chiede maggior rigore e ovviamente i mercati scendono perché questo non giova a quello che è il gioco più vecchio del mondo sui mercati, che poi è la speculazione, insomma. Però quello che si chiede sono delle riforme strutturali, cioè delle riforme durature, non delle cose spot. Per esempio, a me veniva fatto l'esempio da un gestore dell'interruzione delle vendite allo scoperto. Sì, può andare bene, ma non è una cosa fatta sul momento. E nell'ambito invece dell'Europa diceva che l'Italia è sulla via giusta, perché sta cercando quantomeno di fare delle riforme strutturali. Così qualsiasi Stato faccia delle riforme strutturali per mantenere il conto sotto controllo, certo, diventa chiaramente più credibile di tanti altri. Laura Di Luca, credo che questo sia un discorso che è molto interessante anche dal suo punto di vista, tra l'altro proprio sui giornali di questa mattina. Gli ascoltatori l'abbiamo raccontato in lungo e in largo, la manovra che vuole essere messa in campo a breve appunto dal governo da 28 miliardi per esempio può andare nella giusta direzione anche per calmare l'acqua sul fronte dei titoli di Stato delle loro oscillazioni di prezzo recenti? Sì, certamente. Quello che adesso il mercato sta guardando sono i famosi modellini presi molto di moda dalle agenzie di rating, Moody's e Standard & Poor's, che si basano soprattutto sull'avanzo primario e altri due o tre temi che vengono guardati. E noi da questo lato stiamo andando nella direzione giusta. Quello che viene chiesto è la sostenibilità della curva del debito, cioè quindi è vero che ci sono tanti paesi, noi compresi, che abbiamo livelli di debito molto alti, ma a bocce ferme noi in questo modo potremo permetterci comunque, passato il famoso nuvolone di questo periodo, insomma, di sostenere questa curva del debito. Invece ci sono paesi anche con nomi altisonanti come Germania e Francia, soprattutto Francia, che non possono permettersi questa curva del debito, quindi hanno bisogno di riforme più strutturali. Naturalmente è implicito che chi ha più bisogno di riforme strutturali sono i paesi periferici. Noi siamo sulla strada giusta, noi stiamo facendo le riforme, le abbiamo fatte in passato, le stiamo facendo adesso. Questa manovra aggiuntiva da parte del governo serve per dire: noi siamo davanti, noi vogliamo esserci e noi il nostro debito lo vogliamo, non vogliamo farlo pagare ai nostri figli, vogliamo pagarlo noi. Abbiamo stretto la cinghia fino adesso, continueremo a stringerla e vogliamo essere in prima linea. Ecco, questo è il messaggio che vuole essere dato ai mercati finanziari. L'altro suo campo d'azione, Di Luca, l'euro su questi livelli e le obbligazioni societarie. Ha sentito il discorso che faceva prima Isabella Della Valle? È condivisibile? Certo. E su quali settori magari vale la pena puntare un po' l'attenzione relativamente alla società che emettono obbligazioni per finanziarsi, e quindi una relazione anche con il rapporto di cambio di questa fase? Sicuramente è ovvio quello che dicevamo prima, rendimenti molto interessanti dei titoli periferici come il 7,80 della Grecia, partendo dal presupposto che sposo con la signora Isabella e Carlo Gentili, cioè sul fatto di una non considerazione di una possibile default dell'euro o di singoli paesi che compongono l'Europa. Ecco, a questo punto uno può ricercare dei rendimenti interessanti sulla parte sovrana, o ancora di più, cosa ci può essere di interessante sul mercato corporate? Cosa abbiamo visto in questi giorni? Sicuramente grossi correzioni per ciò che riguarda il mercato assicurativo, perché il mercato assicurativo, non dimentichiamoci che ha in pancia, sono i grossi finanziatori dei debiti sovrani, e quindi si faceva un po' a gara chi è più esposto ai periferici, Italia compresa, Generali, AXA eccetera. Quindi dal punto di vista corporate possiamo considerare questo storno che c'è stato sul mercato assicurativo come un buon punto di ingresso. Ecco, io sto parlando da un punto di vista probabilmente di mercato ed è in via secondaria rispetto alla domanda che mi ha fatto lei, nel senso che loro non è che beneficino di un euro debole, ma semplicemente da uno storno di mercato. Ecco, cosa ci può essere di interessante invece? Quello che stiamo valutando noi è sicuramente dal punto di vista sovrano, è in prima prima linea il corporate assicurativo e soprattutto delle singole storie di successo sul mercato emergente. E anche qui però è importante rivolgersi a degli operatori del settore, in quanto non è che uno si parla di mercato emergente, adesso è prodotto di moda e può comprare tutto quello che gli passa sotto mano. È importante fare una suddivisione del debito sovrano emergente in valuta locale piuttosto che delle storie di successo di singole corporate che si devono finanziare quando, e quindi però hanno dei rendimenti comunque molto appetibili. Adesso ci troviamo in situazioni sui mercati emergenti dove abbiamo già fatto una sorta di pulizia dei conti con una serie di default passati, quindi abbiamo i conti sovrani messi in ordine, non siamo oggetto in questo momento, quello che dicevo prima, del temporale che sta colpendo l'Europa, e vivono abbastanza di luce propria. Quindi abbiamo delle singole situazioni come Portegas, Natural, che la Fiat stessa addirittura con i forti con la forte esposizione in America che abbiamo adesso, sicuramente ci danno hanno subito in questi giorni delle forti correzioni, possono essere dei livelli di ingresso interessanti. Ecco, una cosa che mi preme sottolineare è che sul mondo corporate in questo momento non stiamo vedendo la crisi che abbiamo visto a marzo dell'anno scorso, cioè banalizzando sul mondo corporate adesso abbiamo avuto uno storno intorno da 100 che giravano questi titoli, possiamo vedere in area 90, non dimentichiamoci che nell'apice della crisi abbiamo visto i titoli obbligazionari girare a 30, a 40, quindi a ragionare quasi in termini di prezzo, non tanto di rendimento, perché il rendimento era calcolato a 3 cifre. Allora, ho fatto argomentare a lungo Laura Di Luca perché mi sembrava appunto interessante sentire un po' una considerazione generale sull'argomento. Peraltro l'ho fatta arrivare anche al tema dei mercati emergenti perché c'era una domanda di un ascoltatore di Firenze che a questo punto, visto che la trasmissione è terminata, non riesco a fargli fare. Mauro, ma magari, spero che possa essere stato esaustivo quello che diceva Laura Di Luca a tal proposito, se volesse un'argomentazione ulteriore ci scriva, e visto che tra l'altro Carlo Gentili è dalle sue parti, magari giro la domanda a lui. Io intanto ho terminato. Ci sono degli ascoltatori che ci stanno chiedendo: ma chi ha un po' di denaro adesso, allora aiutateci a capire cosa dobbiamo fare per investirlo bene. Questa veramente è una sfera di cristallo che noi non abbiamo molta voglia di leggere, nel senso che per noi è un po' difficile darvi suggerimenti di questo tempo. Vi posso aiutare dicendovi che per esempio lunedì prossimo il Sole 24 Ore pubblica uno speciale guida agli investimenti sicuri, ci ritornerà dunque anche Salvadanaio su questo argomento, anche se il termine sicuro bisognerebbe vedere adesso che definizione dargli, insomma un portafoglio prudente, moderato anche nelle scelte, insomma un po' meno aggressivo rispetto a quelle scelte che potevano essere fatte nel passato, non lo so, lunedì lo scopriremo. Grazie ad Isabella Della Valle, grazie a te Edo. A Carlo Gentili, a presto. Gentili, a voi. Salvadanaio termina qui, ritorniamo lunedì, grazie anche a Fabio Cantadori, Gaia Romani che mi aiuta in redazione, noi ci risentiamo naturalmente all'inizio della prossima settimana. Buon fine settimana a tutti.